Ad alta voce. Ennio Fantastichini legge Ernest Hemingway. Paesaggio con figure. I fought in a war and I left my friends behind me to go looking for the enemy, and it wasn't very long. Era tutto molto strano in quella casa. L'ascensore naturalmente non funzionava più. La rotaia d'acciaio lungo la quale scorreva su e giù era incurvata. I parecchi scalini di marmo delle sei rampe erano rotti, per cui dovevi mettere il piede con cautela sui bordi mentre salivi, se volevi evitare di cadere nel vuoto. Esistevano porte che davano su stanze che non esistevano più, e tu potevi spalancare una porta in apparenza intatta e varcare la soglia e finire nel vuoto. Quel piano e i tre piani sottostanti erano stati distrutti sul lato verso la facciata del palazzo da bombe ad alto esplosivo che l'avevano centrato in pieno. Ma sul davanti, ai due piani più alti, quattro stanze erano rimaste intatte e c'era ancora l'acqua corrente a tutti i piani nelle stanze sul retro della casa. Noi chiamavamo quel palazzo la vecchia fattoria. La linea del fronte si era trovata proprio nel momento peggiore, immediatamente davanti a questo palazzo di appartamenti, lungo il margine più alto del piccolo pianoro intorno al quale girava il viale e la trincea. E i sacchetti di sabbia marciti dalle intemperie esistevano ancora. Erano talmente vicini che avresti potuto lanciare su di essi una tegola rotta o un frammento di malta dal palazzo bombardato mentre ti trovavi su uno dei balconi. Ma ormai la linea del fronte era stata spinta giù dal margine del pianoro, al di là del fiume, e su per il pendio coperto di pini della collina che si leva dietro l'antico casino di caccia reale chiamato il Caso del Campo. Adesso i combattimenti si svolgevano là e noi ci servivamo della vecchia fattoria sia come posto di osservazione sia come punto elevato dal quale filmare. A quei tempi il pericolo era grande e il freddo intenso, e noi eravamo sempre affamati e scherzavamo parecchio. Ogni volta che un proiettile esplode in un edificio causa una gran nube di polvere di mattoni e di intonaco, e quando questa polvere si posa riveste la superficie di uno specchio incipriandolo, come i vetri segnati con la calce delle finestre di un palazzo nuovo. In una delle stanze di quella casa, che davano sulle scale, c'era uno specchio alto e intatto, e sulla sua superficie impolverata io scrissi con un dito, in grandi lettere a stampatello, «Morte a Johnny». E poi mandammo Johnny, l'operatore, in quella stanza, con un pretesto qualsiasi. Quando egli aprì la porta durante un bombardamento e vide quell'annuncio spettrale che lo fissava dallo specchio, venne preso da una furia incandescente, micidiale, rovinosa, e trascorse parecchio tempo prima che ridiventassimo amici. Poi, il giorno dopo, mentre stavamo caricando l'attrezzatura su un'automobile davanti all'albergo, io salì sulla macchina e alzai il cristallo del finestrino perché faceva un freddo cane. E mentre il cristallo saliva, lessi, scritte in stampatello, a grandi lettere rosse, con quello che doveva essere stato un rossetto per le labbra preso in prestito, le parole «Ed è un pidocchio». Adoperammo l'automobile per parecchi giorni con quello slogan misterioso per gli spagnoli. Dovevano scambiarlo per le iniziali o per lo slogan di qualche organizzazione rivoluzionaria olandese, americana, simile forse alla FAI o al CNT. Poi giunse il giorno in cui l'alto papavero inglese di allora ci fece dimenticare quello che stava succedendo nella cittadina. Aveva un enorme elmetto d'acciaio di tipo tedesco e lo portava in tutte le sue spedizioni in direzione del fronte. Quello era un capo di vestiario che nessuno di noi portava mai. Secondo una teoria accettata da tutti, poiché di elmetti di acciaio non ne esistevano molti, si sarebbe dovuto riservarli alle truppe d'assalto. E il fatto che lui portasse quell'elmetto ci rese immediatamente prevenuti contro l'altro papavero. Ci eravamo conosciuti nella camera di una giornalista americana che possedeva una splendida stufetta elettrica. L'alto papavero si era incapricciato all'istante di quella piacevolissima camera e l'aveva battezzata il club. Secondo la sua proposta, tutti avrebbero dovuto portare lì i liquori di cui disponevano per poterseli godere in quell'atmosfera calda e accogliente. E poiché la ragazza americana era una lavoratrice fin troppo indefessa e aveva cercato, forse senza molto successo, di impedire che la sua camera divenisse un club, in qualsiasi senso quel preciso battesimo e quella classificazione furono una specie di mazzata per lei. Il giorno dopo stavamo lavorando nella vecchia fattoria, proteggendo il più accuratamente possibile l'obiettivo della macchina da presa dal bagliore del sole pomeridiano mediante uno schermo di stuoia malconcia, quando arrivò l'alto papavero, accompagnato dalla ragazza americana. Ci aveva sentito parlare di queste riprese nel club e aveva deciso di venire a farci visita. Io mi stavo servendo di un binocolo a 8 ingrandimenti, un piccolo Zeiss, che potevi coprire con le mani in modo da impedire qualsiasi riflesso, e osservavo rimanendo in ombra in un angolo del balcone rotto. L'attacco era imminente e noi stavamo aspettando che gli aerei arrivassero e iniziassero il bombardamento, che sostituiva un'adeguata preparazione con l'artiglieria, in quanto il governo era allora a corto di artiglieria pesante. Avevamo lavorato in casa, nascondendoci accuratamente come topi, in quanto il successo delle nostre fatiche e la possibilità di un'osservazione ininterrotta dipendevano completamente dalla capacità di evitare qualsiasi tiro sul palazzo apparentemente deserto. Nella stanza entrò dunque l'alto papavero, il quale si piazzò al centro esatto del balcone scoperto, con tanto di elmetto di acciaio, enorme, binocolo e via dicendo. La macchina da presa si trovava disposta ad angolo dietro una delle finestre laterali che davano sul balcone, mimetizzata accuratamente, come una mitragliatrice. Io mi trovavo nell'angolo in ombra dell'altra finestra, invisibile a chiunque sul pendio della collina, e sempre attento a non spostarmi mai nello spazio aperto illuminato dal sole. L'alto papavero sedeva in piena vista nel bel mezzo del tratto assolato, con l'aria di essere in elmetto d'acciaio il capo di tutti gli stati maggiori generali del mondo, e le lenti del binocolo balenavano nel sole come un eliografo. «Senta», gli dissi, «noi dobbiamo lavorare qui. Lì dove è seduto lei, le lenti lampeggiano in un modo che chiunque su quella collina può vederle. Credo che non ci sia alcun pericolo in una casa», disse l'alto papavero con placida e condiscendente dignità. «Se è andato qualche volta a caccia di mufloni», dissi, «sa che possono vedere da lontano quanto lei riesce a vederli. Ha notato quanto più chiaramente riesce a scorgere gli uomini con il binocolo? Beh, guardi che anche loro hanno i binocoli». «Io credo che non ci sia nessun pericolo in una casa», ripeté l'alto papavero. «Ma dove sono i carri armati?» «Là», dissi, «sotto gli alberi». I due operatori stavano facendo smorfie e agitavano le mani chiuse a pugno sopra il capo, infuriati. «Vado a portare la macchina da presa grossa in fondo alla casa», disse Johnny. «Stia bene indietro, figliuola», dissi alla ragazza americana, poi all'alto papavero. «La scambiano per il comando di qualche unità, sa? Vedono questo suo elmetto e questo binocolo e pensano che noi qui stiamo dirigendo la battaglia. Se la sta andando a cercare, sa?» Lui ripeté lo stesso ritornello. In quel momento la prima sventola ci colpì. Arrivò con un frastuono simile a quello di una tubazione di vapore esplosa insieme al crepitio della tela lacerata e nel rombo, nello strepito dei muri squarciati e nel polverone fitto come fumo, fece uscire la ragazza dalla stanza e la condussi in fondo all'appartamento. Ma mentre mi lanciavo oltre la soglia, qualcosa con un elmetto d'acciaio mi superò diretto verso le scale. Si può ritenere che un coniglio selvatico sia fulmineo quando balza per la prima volta e comincia a correre via zigzagando. Ma l'alto papavero si precipitò lungo quel corridoio saturo di fumo, giù per le scale traballanti, fuori del portone, lungo la strada, più velocemente di qualsiasi coniglio selvatico. Uno degli operatori disse che non esisteva velocità dell'otturatore della sua Laika in grado di fermarne il movimento. Questo naturalmente non è esatto, ma dà un'idea di quanto corresse. In ogni modo, bombardarono la casa rapidamente per circa un minuto. I proiettili arrivavano con una traiettoria talmente diritta che quasi non si aveva il tempo di trattenere il respiro tra il sibilo che li preannunciava e il fragore dello scoppio. Poi, dopo l'ultimo, aspettammo un paio di minuti per essere certi che il bombardamento fosse finito. Bevemmo un sorso d'acqua dal rubinetto dell'acquaio in cucina e trovammo un'altra stanza nella quale sistemare la macchina da presa. L'attacco stava appena cominciando. La ragazza americana ce l'aveva a morte con l'alto papavero. «È stato lui a portarmi qui», disse. «È stato lui a dire che il posto era assolutamente sicuro e poi se l'è filata senza nemmeno dire arrivederci». «Non può essere un gentiluomo», dissi io. «Senta, figliuola, stia a guardare. Adesso ecco che comincia». Sotto di noi alcuni uomini si alzarono, rannicchiati a mezzo, e corsero avanti verso una casa di pietra in un tratto alberato. La casa stava scomparendo nello zampillare improvviso delle nuvole di polvere causate dai proiettili che la centravano. Il vento spazzava via la polvere dopo lo scoppio di ogni proiettile, per cui la casa continuava a essere chiaramente visibile tra un'esplosione e l'altra, come una nave che sbuchi fuori dalla nebbia. E davanti agli uomini un carro armato sobbalzò rapido come uno scarafaggio, con la torretta rotonda sul dorso e col muso a forma di cannone, e scomparve tra gli alberi. Mentre guardavamo, gli uomini che stavano avanzando di corsa si gettarono giù, lunghi, distesi. Poi un altro carro avanzò sulla sinistra e tra gli alberi, e si videro i lampi dei colpi che sparava, e nel fumo che irrompeva dalla casa uno degli uomini distesi a terra balzò su e corse indietro freneticamente verso la trincea dalla quale tutti erano balzati fuori al momento dell'attacco. Un altro si alzò e corse indietro, tenendo il fucile in una mano e l'altra mano sulla testa. Poi gli uomini corsero indietro lungo l'intero schieramento. Alcuni caddero mentre correvano, altri rimasero distesi a terra, senza mai rialzarsi. Erano sparsi dappertutto sul pendio della collina. «Ma che cosa è accaduto?» domandò la ragazza. «L'attacco è fallito», dissi io. «Perché?» «Non è stato portato fino in fondo». «Perché? Per loro correre indietro non era pericoloso come andare avanti?» «Non proprio». La ragazza tenne il binocolo davanti agli occhi. Poi lo abbassò. «Non ci vedo più», disse. Aveva le guance rigate di lacrime e il volto contratto da un tic. Non l'avevo mai vista piangere prima di allora, eppure ci era capitato di vedere molte cose per le quali si sarebbe potuto piangere, dovendo piangere. In guerra tutti, di qualsiasi grado, compresi i generali, piangono in un momento o nell'altro. Questa è la verità. Qualsiasi cosa possa dirvi la gente, ma è una cosa che va evitata e viene taciuta. E io non avevo mai visto quella ragazza fare così. «E quello è un attacco?» «Quello è un attacco», dissi. «Ora ne ha visto uno». «E adesso che cosa accadrà?» «Possono mandarli avanti di nuovo, se è rimasto un numero di persone sufficiente per comandarli. Dubito che lo faranno. Può contare le perdite, là sotto, se vuole». «Quegli uomini sono tutti morti?» «No, alcuni sono feriti troppo gravemente per potersi muovere. Quando farà buio li porteranno dietro la prima linea». «E che cosa faranno i carri armati adesso?» «Torneranno indietro, se sono fortunati». Ma uno di essi aveva già avuto sfortuna. Nella pineta cominciò ad alzarsi una colonna di fumo nero e grigio, sporco, che venne poi trascinata via di lato dal vento e ben presto si tramutò in una roteante nuvola nera, e tra il fumo nero e greve si poterono scorgere le fiamme rosse. Vi fu un'esplosione, un turbinare di fumo bianco, poi il fumo nero salì ancora vorticando, ma da una base più ampia. «Quello è un carro armato», dissi. Sta bruciando. In piedi continuammo a guardare. Con il binocolo si potevano vedere due uomini venire fuori da un angolo della trincea e avviarsi su per il pendio della collina reggendo una barella. Sembravano muoversi ad agio e a fatica. E mentre guardavamo, l'uomo davanti cadde sulle ginocchia e poi si accasciò. L'uomo indietro si era gettato a terra, strisciò avanti, poi con un braccio sotto la spalla del primo cominciò a strisciare trascinando l'altro verso la trincea e infine smise di muoversi e lo si vide giacere supino. Giacevano entrambi senza muoversi. Adesso avevano smesso di bombardare la casa e tutto taceva. La grande fattoria e l'aia delimitata da un muro spiccavano nitide e gialle contro il verde pendio della collina con cicatrici chiare di terra, là dove i capisaldi erano stati fortificati e le trincee di collegamento scavate. Adesso, dall'altro lato della collina dove gli uomini stavano cucinando, pennacchi di fumo si alzavano dai fuochi e sul pendio verso la grande fattoria giacevano le vittime dell'attacco come tanti fagotti sparpagliati sul verde versante. Il carro bruciava eruttando fumo nero e greve tra gli alberi. «È orribile», disse la ragazza. «È la prima volta che vedo un attacco, è davvero orribile». «Lo è sempre stato». «E non odia la guerra?» «Ah, la odio. E l'ho sempre odiata. Ma quando si deve farla sarebbe bene sapere come combatterla. Quello era un attacco frontale». Sono soltanto stermini. Esistono altri modi di attaccare? Oh, sicuro. Parecchi. Ma è necessario avere perizia e disciplina, e squadre addestrate, e capi squadra. E più di ogni altra cosa è necessaria la sorpresa. È troppo buio adesso per continuare a lavorare, disse Johnny coprendo il teleobiettivo. Salve, vecchio Pidocchio. Ora ce ne torniamo in albergo. Oggi abbiamo lavorato molto bene. Sì, disse l'altro. Oggi abbiamo girato qualcosa di molto buono. Peccato che l'attacco sia fallito, meglio non pensarci. A volte ci capita di riprendere un attacco riuscito, solo che quando un attacco è vittorioso, piove o nevica. Sempre. Non voglio vederne mai più, disse la ragazza. Uno l'ho visto ormai. Niente riuscirebbe a persuadermi a vederne un altro, sia per curiosità, sia per farci quattrini scrivendone. Quegli uomini sono creature come noi. Guardateli sul pendio della collina. Lei non è uomini, disse Johnny. Lei è donne. Non faccia confusione. Ecco che arriva l'uomo dall'elmetto d'acciaio, disse l'altro, guardando fuori dalla finestra. Viene qui adesso con molta dignità. Vorrei avere una bomba da lanciare per fargli una sorpresa. Stavamo mettendo via le macchine da presa e l'attrezzatura quando l'alto papavero dall'elmetto d'acciaio entrò. Salve, disse. Avete ripreso qualche bella scena? Ho una macchina in una delle strade qui dietro per accompagnarla a casa, Elizabeth. Torno a casa con Edwin Harry, disse la ragazza. Le è passata la fifa? Gli domandai in tono noncurante. Lasciò correre, disse la ragazza. Non viene allora? No, rispose lei. Torniamo a casa tutti insieme. Ci vediamo al club questa sera, disse, rivolto a me molto affabile. Non fa più parte del club, gli dissi io, parlando quanto più potevo con l'inflessione inglese. Ci avviammo tutti insieme giù per le scale, facendo molta attenzione ai buchi nel marmo e scavalcando i nuovi squarci o girandovi attorno. Le scale sembravano interminabili e in fondo raccattai un bossolo d'ottone appiattito e rivestito di polvere di calcinacci e lo diedi alla ragazza a nome Elizabeth. Non lo voglio, disse lei. E sulla soglia ci fermammo tutti e lasciammo che l'uomo dall'elmetto d'acciaio uscisse solo. Lui percorse con grande dignità quel tratto della strada dove a volte ti sparavano contro e proseguì sempre con dignità al riparo del muro di fronte. Poi, uno alla volta, balzammo al riparo del muro. È il terzo o il quarto uomo che attraversa uno spazio aperto ad attrarre il tiro. Questo lo impari dopo aver girato per un po', ed eravamo sempre contenti dopo aver superato quel particolare tratto di strada. Così proseguimmo adesso, protetti dal muro, affiancati per quattro, reggendo le macchine da presa e scavalcando i nuovi pezzi di ferro, i mattoni appena frantumati e i blocchi di pietra, e osservando con quanta dignità avanzava l'uomo dall'elmetto d'acciaio che non faceva più parte del club. «Non sopporto di dover trasmettere un dispaccio», dissi. «Non sarà facile scriverlo. Questa offensiva è fallita». «Ma che cosa ti prende, figliuolo?» domandò Johnny. «Devi scrivere quello che si può dire», fece l'altro, con dolcezza. «Senza dubbio deve esserci qualcosa da dire a proposito di una giornata così ricca di eventi». «Quando li porteranno indietro i feriti?» domandò la ragazza. Era a testa scoperta e camminava a passi lunghi e sciolti, e i suoi capelli, di un giallo polveroso nella luce che scemava, ricadevano sul colletto di pelliccia del giubbotto, oscillarono. Quando voltò la testa, era bianca in viso e sembrava indisposta. Gliel'ho detto non appena farà buio. «Dio, fa che la notte scenda subito», disse lei. «Sicché questa è la guerra. È questo che sono venuto a vedere per scriverne. Sono stati uccisi i due uomini che erano andati avanti con la barella». «Sì», dissi io, «senza dubbio». «Si muovevano così adagio», disse la ragazza compassionevole. «A volte è molto difficile far muovere le gambe», dissi io. «È come camminare nelle sabbie mobili o in un sogno». Davanti a noi si vedeva ancora l'uomo dall'elmetto d'acciaio. Alla sua sinistra c'era una fila di case bombardate e alla sua destra il muro di mattoni della caserma. L'automobile di lui si trovava parcheggiato in fondo alla strada, dove avevamo lasciato anche la nostra al riparo di una casa. «Riprendiamolo nel club», disse la ragazza. «Voglio che nessuno venga ferito questa sera, né nei sentimenti, né in un altro modo». «Ehi!» gridò. «Ci aspetti, veniamo!» Lui si fermò e si guardò indietro, con il grande pesante elmetto ridicolo mentre voltava la testa, simile alle enormi corna di qualche bestia innocua. Aspettò e lo raggiungemmo. «Posso aiutarvi a portare qualcosa?» domandò. «No, la macchina è subito qui avanti». «Andiamo tutti al club», disse la ragazza. Gli sorrise. «Vuole venire anche lei e portare una bottiglia di qualcosa?» «Sarebbe un vero piacere», disse lui. «Che cosa devo portare?» «Qualunque cosa», disse la ragazza. «Porti quello che vuole. Devo prima sbrigare un po' di lavoro. Facciamo intorno alle 7:30. «Vuole venire in macchina con me?» le domandò lui. «Temo che l'altra automobile sarà piena zeppa con tutta quella roba». «Sì», disse la ragazza. «Volentieri, grazie». Salirono sulla macchina e noi caricammo l'attrezzatura su quell'altra. «Che succede, figliuolo?» disse Johnny. «Eh? La tua bella va a casa con qualcun altro». «Oh, l'attacco la sconvolta. È molto turbata». «Una donna che non rimanga turbata da un attacco non è una donna», disse Johnny. «È stato un attacco disastroso», disse l'altro. «Per fortuna lei non l'ha visto troppo da vicino, non dobbiamo mai permetterle di vederne uno da vicino, indipendentemente dal pericolo. È qualcosa di troppo forte. Da dove lo ha visto lei è soltanto una scena, come la scena di un'antica battaglia». «È di buon cuore», disse Johnny. «Diversa da te, vecchio pidocchio». «Sono di buon cuore anch'io», dissi. «E piantala con questa storia del pidocchio». «È pittoresco l'appellativo», disse Johnny. Mi alzò la mano e cancellò le parole scritte con un rossetto per le labbra sul cristallo del finestrino. «Domani escogiteremo qualcos'altro», disse. «Ora basta con questa scritta». «Bene», dissi. «Sono contento». «Vecchio pidocchio», disse Johnny. E mi rifilò una manata sulla schiena. «Ricominci?» È pittoresco, ma va all'inferno. Bene, disse Johnny, sorridendo tutto allegro. Ora siamo di nuovo tutti buoni amici. In guerra bisogna stare attenti a non ferire la suscettibilità altrui. Ennio Fantastichini ha letto Ernest Hemingway, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it